Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Lorenzo, Marquez continua a tenere Rossi nel suo mirino, qua davanti, Jorge Lorenzo, Martiglio, Mantequilla ha fatto alla grandissima il suo dovere, qua dietro Valentino cerca di proteggere di nuovo la staccata per questa curva, vince Lorenzo, bravo, Lorenzo c'è, bravissimo. Fantastico, fantastico Lorenzo, davvero. Non capita tutti i giorni di aprire questo programma con un campione del mondo in diretta a Milano per questioni di tempo e poi vi spiego perché, c'è Jorge Lorenzo, io do la linea a Michele Bortoluzzi perché è lì con lui. Ciao Michele. Buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori, siamo a Milano in via Tortona sul set di Sector No Limite, con noi c'è Jorge Lorenzo di ritorno dal Qatar, dal grande successo ottenuto in Qatar. Ecco, allora fagli subito un paio di domande che poi lo liberiamo. Io vorrei sapere se questo duello che abbiamo visto domenica tra lui e Valentino Rossi sarà quello che deciderà il mondiale, molto sinceramente. E allora Jorge, il duello con il desafio con Rossi sarà esto a decidere il mondiale del MotoGP? Bueno, magari io spero che sì, io spero che tutti e due lottiamo per la vittoria per il mondiale. Ma sinceramente mi sa che tanto Marquez come Pedrosa saranno tanto forti e ci metteranno le cose molto molto complicate. Ecco, io vorrei sapere da Jorge, prima di salutarvi e ringraziarvi, anche se una cosa che cui tengo molto, ma lui ha più paura di Pedrosa, che è il suo vecchio avversario, eccetera eccetera, o di questo Marquez che sembra il nuovo fenomeno? Primera, Jorge dice che con un Sector No Limits non tiene miedo de nada, però le passiamo la pregunta, según ti Jorge, è más peligroso al final per il Mundial, la costanza de Pedrosa o il talento de Marquez? Nessuno lo sa, e anche io non spero niente speciale di nessuno, perché tutti e due hanno un talento immenso. E dipende dal circuito, qualche circuito il Marquez sarà più forte e qualche altro Pedrosa. Grazie Jorge Lorenzo, grazie Jorge Lorenzo e grazie naturalmente a Michele Bortoluzzi. Grazie a voi e un saluto a tutti anche da Jorge, che vuole salutare di persona i radioascoltatori. Sì. Ciao a tutti. Ciao Jorge. Ciao, grandissimo. Io un piacere parlare con voi. È un piacere anche per me, io tifo Valentino Rossi però, te lo dico. Bueno, tu sei italiano, devi farlo. Devo farlo, e lo faccio. Devi farlo. Lo faccio pubblicamente. Bueno, un po' a Lorenzo anche. Un po' a Lorenzo anche. 10% anche a Lorenzo. Te voglio muy bien, ma io tifo Valentino Rossi. Perfetto, allora fortuna per la stagione. Grande Jorge. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie a Jorge Lorenzo, dunque, collegato con noi. E c'è Roberto Ungaro, mio amico e direttore di Riders, che dirà che ho la faccia come... Che ho la faccia di... Facciamo che ho la faccia di Tolla, va. Ciao Carlo, ciao. È per fortuna che non la mandi a dire, ma dici quello che pensi. Ormai ma ci mancherebbe altro. In pochi. No, ma io, Robby, io lo dichiaro il mio tifo per Valentino. È l'unica cosa nello sport che dichiaro il mio tifo per Valentino Rossi. Poi per il resto apprezzo tutto, guardo tutti, tifo per tutti, ma per Valentino Rossi non transigo. Gli ascoltatori mi fanno un mazzo così, ma fa niente. Io dal duello, io nel duello di domenica ho visto la primavera, che non c'è ancora, come tu ben sai, ne parliamo ormai da mesi. Il l'inverno è lungo, però l'inverno è lungo. È stato un bagliore questo Valentino e ci ha riacceso, perché tutti abbiamo bisogno di lui. Andando a vedere comunque la lettura della gara, Orge, ragazzi, fa paura, perché tutti i suoi meccanici mi hanno detto che l'hanno visto veramente trasformato, cresciuto, maturato, è consapevole del suo potenziale. E andiamo ad esaminarlo. Al secondo giro, quindi gomme ancora fredde e pieno di benzina, ha fatto 55,4, che era il record della pista, forse ha limato di qualche millesimo dopo Marquez, però questo fa capire cosa aveva nel polso. Valentino ha fatto un recupero incredibile, però aveva un margine davanti, Lorenzo comunque di 6 secondi. Se Valentino si fosse avvicinato, nessuno lo ha detto, ma Orge aveva ancora dei decimi nel polso, aveva ancora un mezzo secondo a disposizione, quindi fa impressione come veramente è un computer, un martello. E sarà interessante vedere, bellissima domanda di Pernat, saranno prima a scoppiare la coppia Marquez e Pedrosa oppure Vale no, ma se, anche perché secondo me Roby Lorenzo ha detto una mezza bugia, perché secondo me teme molto di più Marquez rispetto a Pedrosa. Mi ha anticipato, lui teme Marquez perché Marquez è il fenomeno ed è una mina vagante, nel senso che da lui ti puoi aspettare di tutto. Pedrosa ormai è dal 2006 che lì lo conosciamo, ha fatto un buon finale di stagione l'anno scorso, ma ormai basta, è archiviato, è un capitolo chiuso, anche se può dire ancora la sua. E invece Marquez, che ragazzi, fra i due litiganti sarà lui il terzo incomodo, sarà lui l'ago della bilancia. Orge può solo cadere nella trappola di Valentino, perché Valentino lo può mettere sotto pressione, ma un Orge così sembra veramente impermeabile a queste cose. Un aneddoto, adesso è Valentino che guarda Orge e cerca di, non dico imitarlo, però la moto di Orge ha un adesivo particolare sul serbatoio che serve per dare grip alle gambe, alla coscia all'interno, per non scivolare alla tuta, no? Per avere aderenza. Bene, Valentino l'ha messo anche lui, poi prima l'aveva Lorenzo, poi insomma si studia, non c'è ancora il muro. Non c'è ancora il muro nel box, ma vedrai che lo tirano su. Esatto, Roby. Già mi dicono che ci sono taniche, armadietti e cose, che alla fine c'è un plexiglass adesso, ma vedrai che il muro verrà su. Per noi è spettacolo, quindi beneficiamo di questo. Senti, ma ne approfitti di questo duello sul numero di Riders o no? Guarda, io ho fatto una copertina con la scritta Riabemus Vale. Sì, l'ho visto, con Valentino vestito da papa, un po' blasfema, ma come sai, a me è piaciuta da morire. È ironica, ci sta. Ironica, ed è proprio così, perché è una fumata bianca per noi appassionati. Tornato lui, abbiamo rivisto la luce. Domenica abbiamo visto la testimonianza. Senti, Roberto, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi voglio giusto farti sentire una cosa per capire cosa rappresenta Valentino Rossi. Poi adesso poi lascio che gli ascoltatori 800240024 mi facciano un mazzo così, ma tanto cosa me ne importa. Allora, strade, poi vi faccio sentire la signora Natalina e Roberto Ungaro. Strade. 56-5 per Rossi. Oh, è entrato adesso, dovrebbe stare cucito al cordolo, ha scavalcato Marquez e si trova in seconda posizione. Che razza di gara ha fatto Valentino Rossi! Paradossalmente in questo momento mi verrebbe da dire meno male che ha sbagliato, che almeno ci ha regalato questa rimonta straordinaria, che è importante per lui evidentemente e per tutto il motociclismo. Straordinario Rossi, straordinario Marquez, fantastico Lorenzo. Tutti convocati. Io vi convoco tutti ogni giorno dalle 2 alle 3, 800240024, per parlare di quello che volete, ovviamente in materia di sport. Per altri argomenti ci sono altri programmi. Allora, Roberto Ungaro, direttore di Riders, collegato con noi. Io voglio far sentire a Roberto Ungaro la signora Natalina, con cui sono ancora in debito. Natalina da Milano. Senta, io volevo, sono una sfegatata, io amo Valentino. Anch'io. Senta, io non, volevo non in senso fisico, sia chiaro. Sia che chiaro. Colore devo prendere la bandiera, perché voglio metterla fuori dalla bianca, rossa e verde. bianca, rossa e verde. Che colore vuole prenderla, signora? Se no, la prenda gialla numero 46. Io prendo quella, gialla numero 46. Gialla col 46 nero. Devo andare in Piazza Duomo a Milano a prenderla allora. No, guardi, gliela facciamo mandare. Non lo so, prenda quella che, quella che vuole. Roberto, gliela portiamo io e te in moto. Di persona. Eh? Di persona gliela portiamo. Alla signora Natalina, abita in via Paolo Sarpi, l'ha anche dichiarato pubblicamente. Io non ho ancora avuto tempo, aspetto te, andiamo in moto a portargliela. Assolutamente. No, ma questo per dirti cosa c'è dietro a Valentino Rossi. Era preoccupata perché domenica, prima corsa della stagione, non aveva ancora la bandiera da mettere sul balcone. Strepitoso. Ti rendi conto? Questo è Valentino. Io quando commentavo per Eurosport ricevevo un migliaio di mail a gara. E la cosa bella è che mi scrivevano nonni, donne, tutti, la famiglia italiana, non solo gli appassionati. Lui ha avuto questa capacità, è trasversale, lo dico sempre scherzando, mi fa leggere la Gazzetta dalla prima pagina, altrimenti mi devo sorbire tutto il calcio e poi arrivare alla fine. E è così, è rinato, l'abbiamo detto, è stato 2 anni in congelatore, ma già quest'inverno, ti ricordi, ne parlavamo quando sentivamo le sue dichiarazioni, parlava molto più in dialetto, lo si capiva, sì. C'era dell'energia nella voce, e è tornato a sorridere, gli ha sorriso l'anima e la moto la sente, il prolungamento del suo corpo adesso fa quello che vuole. Senti. Attenzione. Non sarà facile, perché i tempi di recupero e tutto, però certo, è lì, certo, che se la gioca. Senti, ho parlato con suo papà la settimana scorsa e mi ha detto Graziano che lo aspetta sul primo gradino del podio ARS. Sì, perché adesso ad Austin devono soffrire, è una pista dove le Honda sono vantaggiate perché hanno l'accelerazione a confronto della Yamaha, che è una moto che scorre bene in curva, ha bisogno delle piste con le curvone veloci, tipo appunto Jerez. In Europa potranno dire ancora la loro, mentre invece là c'è da stare attenti alle due Honda perché è nettamente superiore nello stop and go, cioè dove c'è la guida con tante accelerazioni frenate. E quindi ad Austin, oltre i due ufficiali, attenzione anche alle altre Honda, perché un Bradle può diventare insidioso, pericoloso, e quindi insomma bisogna stare attenti anche a loro. E poi Marquez, ragazzi, c'è da aspettare la prima vittoria e vedere quello che saprà fare. Sì. Se sta lì davanti, lo spettacolo sarà ancora maggiore per tutto il campionato. Senti, Roby, comunicazione di servizio, quando andiamo in moto? Quanto prima, dopo questo weekend dicono che arrivi l'estate di colpo, ci siamo ballati la primavera, ma va bene così, recuperiamo adesso. Recuperiamo adesso, ci diamo un appuntamento allora. Bisogna aspettare bisogna aspettare un attimo che asciughino le colline e Le colline e poi ci troviamo, dove lo sappiamo solo noi. Lotta nel fango, grazie Roby. Ciao Carlo, un saluto ciao. A tutti. Ciao Roberto, ciao. Ungaro, direttore di Riders. Intanto il prossimo 22 giugno all'Aquila diventerà la prima città d'Italia a dedicare una piazza a Marco Simoncelli. La cerimonia si terrà in mattinata a Fonte Cerreto, alla presenza del padre del pilota scomparso. Volevo darvi anche questa notizia. 800 24 00 24. Piano piano riuscivo a prenderli e quindi mi veniva sempre più il sorriso giro per giro perché vedevo che arrivavo. Sapevo che se li avessi raggiunti li potevo fregare tutti e tre, ecco, quindi stavo godendo. Che sei poi? Io mi chiamo Merlino e questo è Anacleto, un gufo altamente istruito. Oh, un gufo istruito! Sì, questa è buona. Ragazzi, dopo il moto mondiale, dopo Valentino Rossi, dopo Jorge Lorenzo che abbiamo sentito in diretta, adesso è il momento dei gufi! Gufiamo Bayern naturalmente per stasera. Tutti insieme, almeno io sì, poi voi no. 800 24 00 24, non è assolutamente un problema. Io voglio parlare con voi, gufi o non gufi, come abbiamo fatto una settimana fa. Purtroppo una settimana fa è andata non benissimo per la Juventus, speriamo che questa sera vada meglio. Vogliamo sentire qualche voce, qualche altra voce pre-Bayern Monaco, giusto per gufare tutti insieme? Via! Noi abbiamo iniziato il nostro percorso, è inevitabile che se vogliamo trovare già un grattacielo costruito, il grattacielo sarà quello del Bayern. Noi stiamo costruendo, visto che dobbiamo lavorare tanto, Questo è il gap che c'è, però siamo sereni perché è qualcosa di normale. Sono convinto che sicuramente le distanze che tra noi e il Bayern non sono quelle che si sono viste all'andata. Ma sicuramente noi ringraziamo Henkes per delle belle parole, ecco. Mi auguro che domani, in conferenza stampa a fine partita, Henkes possa dire ve l'avevo detto. Sull'inno del Bayern Monaco, 800-24-0024, vi invito tutti, prima Gabriele da Milano. Sentiamo anche Marco Materazzi sul Bayern Monaco. Ci vorrà la bolgia, ci vorrà, ma non serve, lo stimolo per chi è stato criticato, che è stata secondo me una leggerezza, chiamiamola così, ma una cosa vergognosa. L'attacco è stato fatto a Buffon, da un altro grande giocatore quale Beckenbauer. Questo è un buffo reale in guerra. In questo momento si sta guardando intorno. Sono riuscito a trovarlo grazie al suo verso, un richiamo territoriale. Lui lo fa per dire agli altri buffi: state lontano, questo è il mio territorio. C'è Enrico da Bergamo che si autoinvita in moto. Enrico, cose private, mi spiace. Magari un giorno ci andiamo insieme. 800 24 00 24, numero verde. C'è chi mi scrive, Alessandro da Reggio Emilia, parla di Mario che si è maturato, che si becca tre giornate e si fa una grassa risata. Io parlo di Mario che si becca tre giornate, Mario Balotelli naturalmente, per aver detto al quarto, quinto uomo, sesto uomo, non mi ricordo più quanti sono gli arbitri in campo, che cazzo guardi. Penso anche a Moratti che dice: ah, però non ci danno i rigori. Cambiasso interviene in quella maniera su Giovinco. Una giornata, un turno di squalifica, Schelotto che dà Di Matto in campo, un turno di squalifica, si vede che allora gli arbitri sono contro l'Inter, quelli che giudicano a favore dell'Inter. Naturalmente sto dicendo stupidaggini, come stupidaggini sono quelle che sono state dette. Gabriele Milano, buongiorno. Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senti, io ti volevo dire una cosa, ma guarda che a Valentino lo stavano facendo per cadere. Lo stavano facendo cadere, ha avuto un piccolo tamponamento, hai visto? Sì, ho visto, sì. Vabbè, no, ma normale, nelle corse di moto si prende a botte, come sul ring. Sì, ma bisogna considerare anche questo, cioè, se non veniva toccato, secondo me vinceva. Cioè. Secondo me no, perché Lorenzo era troppo forte. Dico la verità, no, ma abbiamo sentito anche prima, Roberto Ungaro, che è uno che in moto ha corso, eccetera, aveva ancora dell'altro nel polso, quindi era imbattibile Lorenzo domenica. Ma vabbè, speriamo per la prossima, dai. Speriamo per la prossima e per quelle dopo. Intanto io mi fido di papà Graziano, che mi dice: la prima banderia è a Jerez della Frontera, per il gradino più alto del podio. Guglielmo Cosenza. Salve. Due argomenti. Uno, perché il Barcellona continua a insistere col fatto che oggi non gioca Messi, poi alla fine sono sicuro che giocherà. E l'altro, mi deve spiegare il motivo delle tre giornate di Balotelli, se ci riesce. Delle tre. Le tre, non l'ho detto prima, non riesco a spiegare gli insulti. Ha fatto una stupidaggine Balotelli, perché si è tirato fuori dal Milan nel momento più difficile per il Milan, nel momento in cui sembra aver finito la benzina, nel momento in cui ha perso la testa, ha fatto la prima scemenza da quando è a Milano. Però mi domando perché un insulto molto maleducato al giudice di fondo campo valga meno di un intervento come quello di Cambiasso, che paga una giornata mentre Balotelli ne paga tre. E questo io me lo domando, e lo domando anche a voi. Non sono milanista, né interista, né juventino, quindi non mi rompete le scatole da questo punto di vista. Semplicemente è una domanda che mi faccio e che vi faccio. E quanto al Barcellona, che tutti ammiriamo, piace molto chiagnare e fottere, come dicono a Napoli. Quindi sono un po' così. Davide, Torino. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Senta, io volevo dire due cose. Io sono juventino, ma stasera non sono ottimista per la cosiddetta remontada. È dura, Bayern Monaco è fortissimo. Abbastanza, io penso che l'andata ci ha battuto sia a livello di gioco, ma anche soprattutto a livello fisico. A livello anche fisico, esatto, d'esperienza, perché ci ha fatto un po' sfogare quei 10 minuti dopo l'1-0, poi ha controllato, non abbiamo fatto un'azione da gol. Guardi, io punto su una prima mezz'ora lacrime e sangue della Juve. Scommettiamo su questo. Senza mai, senza se, un pronostico secco, risultato esatto. Sì. Grazie. Di che? Di cosa? Di Juventus Bayern Monaco. Risultato secco. Porca miseria, non ne indovino mai uno. 1-0 per la Juve. Come? 1-0 per la Juve. Non basta. Io vedo favorito il Bayern Monaco. Poi se vuole le dico che la Juventus vincerà 8-1, ma non lo credo, perché il Bayern è una delle tre squadre più forti d'Europa insieme alle due spagnole. Tutti convocati. Gianni, per concludere, se dovessi lanciare un messaggio al popolo juventino, cosa diresti? Mai dire mai, è sempre la speranza. Allora lanciane uno anche al popolo bavarese. Cazze e gli saghe. Ovvero? Non dire gatto. Il resto l'abbiamo capito. Il resto lo si sa. El trap, cazze in der sacche. Com'è che il tedesco non lo so. 800 24 00 24, il numero verde. Vincenzo, provincia di Matera. Sì, buongiorno. Sono buongiorno. Tiro Tondella, un piccolo paese della provincia di Matera. Com'è il tempo lì? Premetto subito che è arrivato il sole? Mi dica, Vincenzo, è arrivato? Perché io il 10 di aprile stamattina mi sono svegliato con la nebbia e 3 gradi. Sì, c'è tanto sole. Ormai è una settimana. Allora arrivo in moto con Roberto Ungaro. Va bene, allora l'attendo. No, volevo premettere che sono juventino, così mi risparmio poi l'infantile dall'altra parte degli altri. No, niente, volevo intervenire su due argomenti. Uno è il fatto delle squalifiche e degli arbitraggi, che purtroppo non solo per il calcio italiano, ma penso che per il calcio in genere è diventato l'alibi per tutti, no? Anche per noi juventini, perché spesso quello che rimproverò alla Juve è che ha dettato gli arbitraggi, la giustizia sportiva, tutte cavolate, erano errori nostri. In questo caso Moratti dimentica forse quando va a contestare gli arbitraggi, no? Sì. Il rigore che gli è stato dato sul 3-2, poi ha preso altri due gol, non per colpa degli arbitri. Sì. Per quello che riguarda invece le squalifiche, secondo me c'è la squalifica di Ballotelli, perché se io mi rivolgessi a qualsiasi pubblico ufficiale o altro, parlando così mi prendo una sanzione, è giusto che un professionista si prenda la sua sanzione. È giusto che un professionista si prenda la sua sanzione, poi è uscita anche sta roba qui dei cori razzisti che francamente... No, sto per dire che per me sono stufo, insomma, di leggere queste cose, ma sono stufo perché è inciviltà, è maleducazione, ma poi è anche un po' di demagogia. Resta il fatto che dal mio punto di vista, ma sarà solo il mio punto di vista, un fallo, come e ripeto, anche se voi vi incazzerete, mi direte qualunque cosa, non sono interista né milanista né juventino, però a me ha fatto maggiore impressione il fallo di Cambiasso all'ultimo secondo su Giovinco rispetto all'insulto di Balotelli. Poi è una fesseria l'una, è una fesseria l'altra. Io fossi stato giudice sportivo li avrei trattati diciamo alla stessa maniera. Poi è chiaro, una giornata di squalifica perché era diffidato, un'altra giornata di squalifica, due giornate di squalifica perché ha insultato l'arbitro, però poi non stiamo a parlare di malafede. Saluto e ringrazio il professor Tony Damascelli, che magari mi illumina. La ringrazio. Io il professore in ambulatorio. L'altro in accademia. E l'altro? L'altro è un pensionato itinerante. Senti Tony, stiamo parlando di queste tre giornate a Balotelli. Allora tu, il tuo pensiero qual è? Poi parliamo anche dei comici che entrano in campo, come hai scritto ieri, no? Il mio pensiero è che chi è screanzato va punito. C'è una maleducazione viaggiante. Perfetto. E quindi sino a Balotelli appartiene ormai. Io ho scritto un anno fa, durante gli europei, una frase che gli è stata riportata male, che è stata poi oggetto addirittura di dibattito durante la conferenza stampa nazionale. Questa Balotelli appartiene a una generazione che è nata è cresciuta con il culo nella Nutella. Sì. Allora, io non ho detto che lui è nato col culo nella Nutella, ma è una generazione alla quale è permesso fare di tutto, per cui lui fa quello che vuole, lo fa anche bene, sì. Dopodiché deve pagare le conseguenze. Il signor Tevez va a 250 all'ora con la sua Porsche, fa 250 ore di lavori socialmente utili. E si presenta, e si presenta con la Porsche? Sì, si presenta con la Porsche, lascia la Porsche, poi lascia mette Porsche. Il concime, e fa lo spazzino. Mette il concime, prima faceva lo spazzino, poi ieri l'hanno beccato giustamente mentre trasportava il concime, concimava i giardini in questo centro di riabilitazione per i disabili, e quindi zitto, faccia qualcosa di socialmente utile. Costoro, a parte l'utilità ludica e calcistica, non riescono a far nulla di socialmente utile, per cui per me le punizioni, le squalifiche, in questo caso la squalifica di Balotelli, perché crea clamore? Perché il Milan deve giocare con la Napoli e con la Juventus, il Catania non conta, no? No, no, no, ma poi ridurranno, vedrai, da 3 sì, a 2. Sì, ridurranno da 3 a 2, ma sicuro, sicuro. Catania cos'è, il terzo mondo? No, ma sicuro, Tony, però tu mi devi spiegare, allora, perché è una cosa che non capisco. Allora, la malafede, allora, c'è malafede contro l'Inter, ok? Il fallo di Cambiasso... No, dicono, c'è la malafede contro l'Inter, lo dice Moratti, lo ripete Bonolis e fanno questo sketch... E poi una giornata a Cambiasso per quel fallo, e secondo me non sta né in cielo né in terra, e poi una Schelotto e tre a Balotelli. Sì, allora tre a Balotelli sono giuste. Va bene, e lasciamole lì. Una Schelotto e una Cambiasso non sono giuste. Sono? Ma poi non ho sentito. Non sono giuste, okay. Perché Schelotto ha dato di matto e Cambiasso ha fatto qualcosa che... di cui si è pentito immediatamente, ma anche il pentimento deve portare poi, quindi chiedo scusa a Zidane, chiede scusa a Materazzi, e chiede scusa no, perché non ha mai chiesto scusa, tanto per ricominciare. Ora, se la mettiamo sulla malafede, io potrei anche essere d'accordo se con Moratti, lo sai perché? No. Lui ha dimostrato tempo fa, mi pare, di avere la capacità, i mezzi, per denunciare, per intercettare, per pedinare e per arrivare a scoprire i colpevoli, diceva lui. Sì. Quindi lo faccio anche questa volta. Io fossi gli arbitri cercherei, anche in questo caso mi meraviglia l'assenza del potere arbitrale. Anche a me. Partirei subito con un'indagine. Per sapere, no, primo, se è vero sicuro. Quello che ha detto Moratti. Sicuro. Nel caso fosse vero, quindi intervenire con i miei tesserati. Nel caso in cui non fosse vero, qualcosa dovrebbe essere fatto nei confronti del presidente dell'Inter, che si chiama Moratti, per cui non chiamandosi Lillo Foti o un altro cognome, scegliete voi, gode di, come Agnelli, come Galliani, come De Laurentiis, gode di una protezione anche mediatica diversa. No, sai, perché poi mi chiamano gli ascoltatori e mi dicono ma c'è malafede nei confronti dell'Inter, eccetera, eccetera. Sono gli stessi, no, bravo, Chiagni e Fotti, e dicono sono gli stessi arbitri che c'erano prima. E io dico sono anche quelli che non hanno dato un rigore contro l'Inter per 53 partite, o mi sbaglio? Ma io so che l'anno scorso la squadra che ha vinto il titolo, se non sbaglio, non ha avuto rigori per 19 partite. E ha vinto il titolo. L'Inter quest'anno è stata penalizzata in alcune occasioni, però mi pare che in Coppa UEFA, l'ho riportato nel pezzo di ieri, abbia subito alcune sconfitte, abbia subito alcuni pareggi, che ho sopportato alcuni pareggi con squadre abbastanza anonime, ordinarie, dell'Azerbaigian, della Romania, eccetera. Allora, se la tesi della malafede ed è stata eliminata in Coppa, se la tesi della malafede degli abiti italiani e se la tesi del comico del campionato deciso a tavolino, bisogna sapere se c'è un tavolino anche a Nyon. E chiedo subito a tutti, come mai quando in Italia sbagliano gli arbitri partono le intemerate contro Nicchi e Braschi, cioè i designatori, e invece quando sbagliano gli arbitri a livello di UEFA, di Champions, partono gli striscioni contro Platini, ma non contro il designatore, che si chiama? Collina? La risposta è esatta. Ah, ma guarda un po'. Tony, prima di salutarti ti chiedo di Bayern Juventus di questa sera, al di là di tutti i gufi appollaiati in giro e che hanno diritto di cittadinanza. Ma guarda che gufare è lecito, non è un reato, ma assolutamente è no. È tipico del tifoso, ma non è un reato, non usciamo anche da questa. Ma assolutamente, ma sono il primo a dirlo, è giusto che esistano. Pregate per me. È giusto che esistano i gufi. Io sono a favore del gufaggio civile, ma sono a favore del gufaggio, è giusto che esistano. Io non sono gufo, dico Juventus Bayern di stasera, comunque con tutto. Guarda, io ti dico una cosa, non riesco a vedere la Juve che passa. Se c'è una logica, deve passare il Bayern, perché il Bayern è più forte, ma il calcio non è una logica, come dimostrato dalla partita di Dortmund di ieri sera, dove Mamma se ci fosse mia. Stata una logica, doveva passare il Malaga. Mamma mia. A tutti i costi. Ma il signor Thompson ha fatto sì che passasse invece il Borussia Dortmund in modo scandaloso. Stasera l'arbitro è uno spagnolo, non vorrei che, seguendo la teoria italiana, la solita logica, contro i tedeschi, sì. Per l'analisi, per la proprietà, anzi per la teoria degli arbitri comunicanti, sì. E, io ritengo che sarà quasi possibile per la Juventus. Do alla Juventus il 10% di possibilità, poi se faranno il colpo, sarà il colpo della vita. Certo. Eliminare prima i campioni d'Europa, cioè il Chelsea, e poi i vice campioni d'Europa, il Bayern, alto finalista l'anno scorso, cosa volete di più? Una squadra che gioca con Padoin, Bonucci, Barzagli, Asamoah, scegliete voi gli altri. Sì, no, ma Quagliarella poi... e Vucinic. Bravo, mi aspetto una grande prima mezz'ora col sangue agli occhi però. Ma io preferirei che giocassero invece con l'intelligenza, perché i tedeschi si battono con l'intelligenza e non col sangue agli occhi. Vanno battuti come ha dimostrato sempre la nazionale italiana di calcio. È finita l'epoca in cui i tedeschi vincevano a prescindere. Le squadre tedesche poi non sono tutte tedesche, i due giocatori migliori, di più pericolosi, sono un francese e un olandese. E quello che ricordo sempre come provocazione è che nell'anno in cui Harry Robben è passato dal Real Madrid alla Bayern di Monaco per 25 milioni e Schneider da Real Madrid all'Inter per 15, la Juventus ha speso 50 milioni per il signor Diego e per il signor Felipe Melo, e con questo vi saluto. Grazie Tony. Ciao. Ti salutiamo anche noi. Ciao a Tony Damascelli, ci fermiamo per il traffico, poi aspetto voi. 800240024, numero verde. Ti sembra ci sia il Milan dietro a quello che sì. tu dici? Allora, la sceneggiatura sembrerebbe raccontare questa trama. Hai voglia che vorrei sbagliarmi, però mi sembra questo. Tutti convocati. Cazze e Nissaghe, ovvero? Non dire gatto, il resto l'abbiamo capito, il resto lo si sa. No, ragazzi, io vi convoco tutti, 800-24-0024, sereni o meno, preferisco sereni, e sempre su ogni sport, tutti i giorni, dalle 2 alle 3, qui, a Radio 24. Marco, provincia di Vicenza. Pronto? Pronto? Sì, mi deve scusare, ma sono... C'è un po' di rumore sulla strada. Tanto. Spero che sia passato. Dica. Niente, volevo semplicemente dire questo. Io sono un tifoso interista. Sì. Ma innanzitutto mi considero uno sportivo e mi auguro, anche se obiettivamente, guardando quello che è successo, mi auguro che ci sia la rimonta da parte della Juve. Quando si gioca in Europa si è italiani e lo si finisce lì. In secondo luogo, non sono molto d'accordo sulle uscite anche del presidente. Io capisco l'amarezza del presidente dell'Inter, la capisco anch'io, Marco, la capisco anch'io. Chiaro, io però un conto è la nostra, Marco, un conto però è la nostra, la mia, la sua, che non contiamo nulla. Un conto è l'amarezza pubblica di uno che ha un ruolo istituzionale, certo. Eccetera, eccetera. No, perché io e lei possiamo dire che gli arbitri prendono la mezza dalla Juventus, io e lei. No, al massimo io mi becco una querela e lei niente. Sto esagerando, sto estremizzando. Però il presidente dell'Inter, che ha un ruolo istituzionale importante per il calcio italiano, io capisco l'amarezza, ma quelle uscite faccio fatica a giustificarle. Sì, obiettivamente, anche perché io parto dal presupposto che io per esempio non gioco mai nelle macchinette, perché so che sono, si vince una volta su un milione, lo so che è così. Se parto dal presupposto che ci sia qualche, mi scusi il termine, qualche taroccatura, non ci gioco più. Sì. Però io sono convinto che siano stati fatti dei gravi errori che hanno poi influenzato comunque delle partite. Ma gli, sugli errori, soldi, nessun, Marco, lei, lei sa meglio, lei sugli sa errori, di me. Sugli errori, terzi o quarti significa fa una grande, fa, un fa un'enorme meno, differenza. Ma sugli errori nessuno discute. È questo il punto. Sugli errori nessuno discute perché ci sono stati, no? Sugli errori nessuno discute. Però se andiamo a dire che quegli errori sono dolosi, allora mi sembra che cambi il cambino i termini del discorso. È questo il senso, no? Perché se diciamo che ci sono stati degli errori, sì, ci sono stati. Ci sono stati anche, volendo, in Fiorentina-Milan, da una parte come dall'altra, a favore e contro il Milan. O Tagliavento non era stato avvertito del disegno oscuro che c'era contro il Milan. Ci sono stati degli errori di comunicazione, come diceva prima Tony Dramascelli. Oppure toccherà chiedere a qualcuno di spiegarci perché ciò è successo. Di conseguenza, che ci siano stati gli errori è un conto, che ci sia stato dolo è un altro, il dolo che è stato denunciato. Carmelo Agrigento. Salve, io sono in tifoso interista. Sì. Sono d'accordo con lei sul discorso di Moratti, sul discorso dell'altro. L'Inter ha perso dei punti con Atalanta, Siena, per l'errore di concentrazione, difesa, Ranocchia è sempre fuori posto, quindi io, guardi, io sono interista alla morte, però quest'anno siamo troppo ridicoli. Poi io dico un'altra cosa, secondo me il campionato italiano è molto molto scarso. Quando in Italia c'è una squadra come il Catania che rischia di andare in Europa League, beh, Catania gioca bene, Catania gioca bene, Spagna, con altre squadre tipo il Barcellona andrebbe a vincere 5-6-0, l'Inter vince per forza, la Juventus vince per forza. Io il Catania con la quinta, sesta squadra spagnola non lo so come va a finire. Cioè adesso il Catania gioca appena a pallone, e questo è indubbio. Proviamo a vederla con la quinta, la sesta squadra spagnola, andate e ritorno e vediamo chi vince. Secondo me Catania, poi magari mi sbaglio. Grazie Carmelo, adesso faccio un salto in Belgio dove ci chiama un ascoltatore da Lovanio, paese molto famoso, ovviamente non per motivi sportivi. Luca? Pronto? Buongiorno. Ciao Carlo, convocatissimo. Ciao. Dal Belgio, da Lovanio, dove stamattina è partita la Flash Brabanson, sì, a cui ha preso parte anche quel campionaccio, lasciamolo definire così, di Peter Sagan. Sì. E ti chiamavo per segnalarti un aneddoto che è accaduto alla partenza, sì, dove Sagan, da gentil corridore e gentiluomo, ha donato un mazzo di fiori, sì, alla velina che era stata vittima di quell'incidente al termine della corsa di 2 settimane fa. Incidente. Se non che, c'è stato anche il rischio, però incidente più grosso, perché al momento di scambiarsi i baci, chi parte da destra, chi parte da sinistra, insomma, per rimediare quasi scappava l'incidente più grosso. Niente, questo anche risposta a tutti i ciclisti dopati. Ma veramente? Sì, te lo confermo. Cioè, alla partenza da Lovanio verso le mezzogiorno. È andato dalla miss lungo cui aveva allungato la manina, le ha donato il mazzo di fiori e poi non sapevano dove darsi il bacio? Esatto. Meraviglioso. E comunque, a bando dei moralismi italiani, ti dico che il presentatore della corsa ha detto che lui a 23 anni avrebbe fatto lo stesso gesto di Sagan, e non mi riferisco a quello di oggi. Niente, tutto qua. Un saluto ai tuoi ascoltatori, che ascolto sempre dal Belgio. Che tutto qua, numero uno Luca, numero uno da Lovanio, paese assai famoso, ripeto, non per motivi sportivi né ciclistici. Mi spiace che dobbiamo chiudere, che abbiamo ancora un minuto, perché mi sto divertendo un mondo. Giorgio Novara. Pronto? Vediamo se riesce a superare Luca da Lovagno, che ci ha raccontato questo aneddoto. Ciao. No. Volevo fare una considerazione su Bayern e Juventus. Sì. Giustamente tu hai detto che il Bayern ha dominato in lungo e in largo la partita, sia sul piano fisico, sul piano tattico, di esperienza e tutto questo. Le stesse cose che tutti i giornali hanno detto. Però ho notato una cosa. Se non avesse fatto quelle due piccoli errori, chiedevano così, Buffon, non avrebbero comunque segnato. Piccoli, piccoli, piccoli ovviamente lo stai mettendo tra virgolette il piccoli, no? Sì, tra virgolette, non avrebbero comunque segnato un gol. Beh, no, no, questo non si può dire, questo, Giorgio, questo è, insomma, è, possiamo immaginarlo, ma non, non si può dire, perché comunque magari Bayern avrebbe segnato in, in altre occasioni. Io continuo ad essere dell'idea che Conte in quella partita abbia rinunciato a due giocatori che avevano l'energia che serviva per contrastare Bayern al centrocampo e che si chiamano Asamoah e Pogba. Poi questa sera la vediamo e domani ne parliamo insieme, perché adesso dobbiamo chiudere. Grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, a Roberto Scaltritti in regia. Tutti convocati domani alle 2. Ciao. Ho, ho, ho, ho, ho.